Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, eccoci di nuovo con la cronaca, le storie e i personaggi dell'Italia vista in controluce. Continuiamo il viaggio d'Italia in controluce nelle città dove si è votato per le elezioni amministrative, alla scoperta dei nuovi sindaci, dei nuovi primi cittadini, dunque idee e programmi per le città. Cominciamo con Vincenzo De Luca, eletto con una percentuale bulgara a Salerno. Abbiamo grandi segreti, è la fatica sulla base di un'idea di città e anche, come dire, qualche elemento identitario forte che è stato colto dalla nostra comunità, che guarda l'Europa e che si presenta oggi davvero come un'isola felice in un contesto estremamente problematico e tormentato come quello della Campania. Tenga conto che la comunità salernitana ha apprezzato particolarmente, non poteva essere diversamente, il fatto che siamo il primo capoluogo d'Italia per la raccolta differenziata, 72%, che non abbiamo mai avuto la carta per terra a fronte di disastri ambientali che sono a 50 chilometri dalla nostra città. E poi abbiamo in corso un programma gigantesco di investimenti, di opere pubbliche che stanno creando lavoro, creando economia. Ecco, lei ha proprio annunciato l'apertura di molti grandi cantieri anche in campagna elettorale. Come si fa a costruire, ad investire senza arricchire la camorra? È uno dei nostri miracoli, si fa facendo una scelta semplice, e la scelta si fa esattamente in questi momenti di campagna elettorale, evitando di farsi dare i voti e i soldi dai camorristi, perché poi se in campagna elettorale ti fai pagare, poi vengono per riscuotere le cambiali. E abbiamo ricevuto un premio come il miglior sito istituzionale d'Italia per la trasparenza. Questo è un altro dei caratteri della nostra amministrazione, è veramente una casa di vetro, cioè un'amministrazione che punta alla conquista del consenso, non sulla base di clientele di massa o di, come dire, pratiche amministrative deteriori. Quindi si riesce ad raggiungere, diciamo così, un livello di consenso anche altissimo come il suo, senza i clientelismi e senza, diciamo, peggio? Devi solo lavorare 100 volte di più, perché poi per avere il consenso in questo modo devi proporre una trasformazione urbana che si vede, altrimenti il consenso non arriva. E quello che si vede in questa città è veramente qualcosa di unico. Noi avremo fra un anno e mezzo il fronte di mare più bello d'Italia, d'Europa. Abbiamo 7 chilometri di costa benedetti da Dio, fra costiera amalfitana e cilentana, e ricchi di opere di grande architettura contemporanea. Abbiamo qui concentrato da Zadid, da Riccardo Bofill, Santiago Calatrava, Jean Nouvel. Non c'è in Italia oggi una tale concentrazione di architettura contemporanea. E badi, sono opere che si concludono. Un anno e mezzo e finiamo tutto, è veramente un miracolo. È chiaro che di fronte a questa trasformazione verificata, non annunciata, si crea entusiasmo, partecipazione, orgoglio civico, e devo dire fra le cose che mi hanno colpito in queste settimane di campagna elettorale la verifica di un clima di grandissima fiducia ed entusiasmo in città, cioè sembravamo veramente fuori dell'Italia. Abbiamo oggi un'Italia che è ripiegata su se stessa, un clima di depressione generalizzato, e qui respiriamo un clima di entusiasmo e di fiducia per l'avvenire. E ora invece conosciamo un primo cittadino di centrodestra, il neo sindaco di Latina, Giovanni Di Giorgi. La prima cosa da fare è quella di ricucire un feeling con la città, quindi di far capire che c'è un nuovo sindaco che gli piace stare in mezzo alla gente, un sindaco che vuole essere concreto nella semplicità. Ricostruire questo feeling, anche perché io ieri sono stato il candidato di una coalizione, oggi sono il sindaco di tutti e quindi devo pensare a tutti quanti i problemi della città. Lei ha parlato di feeling, Latina viene da più di un anno di commissariamento dovuto alle divisioni interne al centrodestra che da sempre storicamente governa la città. Questo ha avuto ripercussioni sul rapporto tra la politica e i cittadini? Questo qui è proprio un dato di fatto, cioè noi abbiamo un anno di commissariamento, veniamo da una lacerazione forte, la mia squadra è riuscita a ricucire tutto quanto il rapporto, quindi abbiamo fatto una grande coalizione. Diciamo il passato che ha cercato con una regia di portarci al ballottaggio ha fallito, e quindi scompariranno come neve al sole, e quindi adesso ci attende una stagione di cose concrete e soprattutto per ricostruire questo feeling con la città. Quali sono dunque le cose da fare e quali sono i problemi di Latina? Quello legato sicuramente alla manutenzione del verde, quelle legate al discorso della manutenzione delle strade, al discorso legato al problema dei rifiuti e delle bollette d'Arzu, dove noi come comune ci riapproprieremo per quanto riguarda la riscossione. Latina, per la sua vicinanza con Roma e per il suo tessuto industriale, rappresenta il volano per lo sviluppo del Lazio. Molte delle aziende della zona però ancora non sono uscite dalla crisi. Come affronterà questo nodo? E noi dobbiamo rimettere in piedi l'economia, questo qua è sicuramente il dato più importante. Abbiamo già fatto dei passi importanti durante la campagna elettorale, aprendo il cantiere del porto canale di Rio Martino, parliamo di un porto canale di 400 posti in barca col collegamento delle isole, e dobbiamo soprattutto lanciare l'idea di turismo, farlo diventare impresa di turismo Latina, e sicuramente il discorso del cantiere aperto del porto è un volano importante, come un volano importante sarà quello di far partire i contratti di quartiere che sono lì prossimi, e l'individuazione delle aree per l'edilizia residenziale pubblica. Parlando di edilizia, non può non venire in mente che Latina è una delle città più a rischio per quanto riguarda il lavoro nero nei cantieri. Sì, sicuramente quella è un'altra problematica, è un sistema che va stroncato, tutti quanti dobbiamo essere diligenti ad monitorare e soprattutto contrastare questo fenomeno. Anche perché il tema del lavoro nero, e però qui stiamo parlando più che altro di agricoltura, nella vostra zona è legato alle infiltrazioni e alla presenza forte della camorra. Affrontiamo questo nodo. Ho fatto un passo in avanti rispetto al passato, dicendo chiaramente che il fenomeno esiste. Ho dato la mia disponibilità a incontrare più forte nelle forze dell'ordine, quindi darò la mia piena disponibilità non solo, ma potenziando la polizia locale in modo che le forze dell'ordine possano essere più presenti sul territorio su questa tematica. È tutto anche per questa puntata. Scriveteci controluce@radio24.it. Buona giornata.